E allora, 17:36 minuti, così, cioè, creiamo un momento un po' più serio, non che quello che è stato fino adesso non lo sia stato, però appunto torniamo a parlare di prigionieri politici Mapuche e allora ecco, io adesso vi manderò quest'audio dove appunto vi chiedo sempre di essere pazienti perché improvviserò questa traduzione, anche se insomma è molto semplice e riguarda in particolare la condizione di Ariel Trangol, una delle condizioni direi più resistenti, visto che a 125 giorni di sciopero della fame la sopravvivenza è dura, insomma, ma credo che di poter dire che questo sciopero così estremo stia anche intanto, come abbiamo sempre detto, a riconfermare che la lotta Mapuche è una lotta determinatissima, che sa benissimo che il Mapuche, la comunità Mapuche, la popolazione Mapuche, i suoi rappresentanti spirituali perdono senso di esistenza nella misura in cui perdono il legame con la loro cultura e la loro spiritualità, estremamente attaccati alla terra. Questo deve essere una cosa fondamentale, per cui ci spiega già questo concetto in sé perché si è decisi anche ad arrivare alla morte per rivendicare tutta una serie di concetti che portano alla resistenza. Ne abbiamo parlato con lo sciopero ne abbiamo cominciato a parlare nei primi mesi di quest'anno con lo sciopero della fame della Machilin Conau, una donna di 67 anni, ancora più importante nella misura in cui lei è proprio una rappresentante spirituale, quindi forse se si può dire ancora più vicino il suo legame anche in quanto necessario per una trasmissione culturale. E invece lo sciopero dei compagni, in particolare di Ariel Trangol, dei compagni e le compagne del caso Iglesia, riguarda l'accusa di il reato di terrorismo. L'abbiamo già detto, torniamo a ripeterlo: il reato di terrorismo in Cile è un residuo della dittatura pinochettiana, era quella accusa che fondata sul nulla permetteva di arrestare chi che sia, chiunque, e di farne quello che abbiamo visto che è accaduto sotto la dittatura cilena. Abbiamo e di Pinochet. Abbiamo parlato tante volte di quanto questa dittatura non sia caduta con un atto rivoluzionario di qualsiasi tipo, perché insomma, ma quanto ci sia stato un lungo processo di pacificazione. Inutile tornare a fare della storia, ricordare quanto Pinochet fosse sostenuto da tutta una serie a livello mondiale di forze imperialiste, di quanto fosse forte anche di questo appoggio e quindi avesse portato la sua dittatura a degli estremi molto forti per quanto una dittatura, e quindi nel processo di pacificazione che ha continuato a essere utile a qualcuno, non ce lo dimentichiamo, Pinochet non era solo ad appoggiarlo, aveva una grossa aristocrazia, un grosso gruppo di borghesi aristocratici terratenenti, difficilmente nativi cileni, o comunque insomma sicuramente difficilmente con la faccia da indi, ecco, questa è un'altra cosa che definisce molto il Sud America, o comunque insomma persone che discendevano dai colonizzatori, da quei terratenienti che in 500 anni si erano un po' spartiti lo spartibile e la terra. Ricordiamo anche in momenti storici in cui si parla del re di Spagna, per esempio, che addirittura il re di Spagna, che oggi alla luce dei fatti catalani ci sembra una delle persone più infami, addirittura lui fu più democratico con i Mapuche rispetto all'attuale stato cileno o argentino. Lui addirittura anzi tornò a dare alcune terre, non per farlo bello, ma sicuramente anche lui era un colonizzatore, sicuramente non lo vogliamo salvare, ma per farvi capire quanto più si innalza a livello di capitalismo e di imperialismo e più senza vergogna si riesce a scavalcare quelle che vengono chiamate democrazie, ormai non si sa più in nome di cosa. Tornando a noi, il reato di terrorismo è un reato che non ha mai smesso di essere usato esattamente per rappresentanti delle lotte sociali, quelli che vengono chiamati resistenti sociali, rappresentanti delle classi più deboli o anche rappresentanti nelle lotte rurali. E chiaramente i Mapuche sono tornati a essere un problema per il Cile, chiaramente lo dico in maniera ironica, nella misura in cui sono tornati a vivere sulle proprie terre. Non sono tornati a occuparle, questo l'abbiamo, non usiamo questo termine perché si occupa qualcosa che è di qualcun altro, lì si torna su una terra che ti è stata che ti è stata rubata, direi che è il termine più adatto. La situazione di questi prigionieri politici viene da, insomma, sono diversi, abbiamo già parlato di quanti di loro poi sono stati male, e vi abbiamo raccontato anche che per quattro di loro lo Stato cileno è stato disposto, quando l'ha visto in punto di morte, è stato disposto a ritirare l'accusa di terrorismo. Per quanto questo sia accaduto, ascolteremo nell'audio quanto poi a livello giudiziario questa scelta dello Stato cileno non sia interessata praticamente a nessuno, quindi i compagni continuano comunque a essere, nonostante non ci sia alcuna prova per il loro processo, continuano a essere tenuti in prigione. Vi dico questo anche perché chiaramente è il loro desiderio, non solo che per loro stessi venga sospeso l'accusa di terrorismo, ma perché questo refuso appunto giuridico venga eliminato e non si possa più usare per nessuno. Una volta che portano avanti questa lotta, come era prevedibile, la vogliono per tutti e non solo per loro stessi. Allora, io vi chiedo un po' di pazienza se ci saranno un po' di defiance. L'audio dura pochi minuti, è una sintesi importante che io ho voluto comunque mandare più che raccontarvi, per dare una voce veramente oggi più che mai a una popolazione indigena che credo ci stia insegnando tanto, non solo in quello che è il rapporto con la propria terra, ma anche in quella che è la resistenza e la capacità di internazionalismo. Forse loro hanno veramente una capacità di far arrivare di qua, da quest'altra parte della mela, tanti contenuti e tanti grossi esempi, e quindi insomma diciamo che con certo orgoglio poi gli diamo voce. E allora abbiate un po' di pazienza, io vi mando l'audio cercando insomma di fare una cosa ascoltabile. A tra poco. Saludos fraternales, compañeros, compañera internacionalista. Mi nombre es Rosalind Coñir, yo soy miembro de la red de apoyo del denominado caso Iglesia. Sono rappresentante di quello del giudizio del caso Iglesia e del accusato. Devo informar la situación actual de él. Vi voglio informare sulla sua situazione attuale. En primer lugar, quiero informar de que hoy día, innanzitutto, quiero dirvi che oggi il nostro compagno compie 123 giorni di sciopero liquido. E questo è anche il motivo per cui, diciamo, fino adesso non è stata effettuata la sua presunzione di innocenza. No le han podido todavía cambiar la medida. Non gli hanno potuto cambiare la misura cautelare e quindi ancora è in arresto preventivo, in prigione. Il 10 ottobre aspettava che nell'udienza potesse avere il suo legittimo diritto di arresti domiciliari totali. Visto che lui si trova messo appunto accusato di atti terroristi, vi voglio informare che Ariel Trangol sono state fatte una serie di perizie scientifiche che hanno dimostrato che Ariel Trangol è innocente. Non ci sono prove, insisto, non ci sono prove che accreditino la colpevolezza di Ariel Trangol in fatti terroristi. La Fiscalia, il Ministero Pubblico non hanno considerato assolutamente queste prove e quindi continuano a mantenere una tesi che sostiene che Ariel Trangol è un pericolo per la società. Lamentiamo questo atteggiamento della Fiscalia, ma non ci sorprende, perché la Fiscalia risponde a interessi politici e economici. Loro sono sicuramente hanno spinto per l'arresto ingiusto e la criminalizzazione di Ariel Trangol, ma anche sostengono e sostengono questi montaggi giudiziari verso i nostri fratelli in generale, in particolare adesso verso Ariel Trangol. Nonostante il governo cileno adesso non è più querelante in questa causa, e nonostante la causa non abbia un querelante preciso, ma lo Stato tantomeno usa la sua influenza. Questo significa che il Ministero Pubblico, come organismo autonomo, si muove in maniera autonoma e quindi in maniera diversa dal governo cileno. Il governo cileno ha voluto attuare la legge antiterrorista verso Ariel Tangol, ma il Ministero Pubblico sostiene che semplicemente il governo sia sbagliato e che il governo... Ricordiamo che la legge del terrorista non è una legge che può esistere in una democrazia cilena. Il quitare la querella in alguna altra forma sta dando a conoscere eso. E che questo processo sta rendendo molto chiaro tutto questo, il meccanismo con cui si usa questa accusa. Dice tutto lo contrario, dicen che Ariel Tangol sì è colpevole, che Ariel Tangol. Il Ministero Pubblico, quindi dall'altra parte, la controparte, dice che sì, Ariel Tangol è una persona pericolosa, cosa che praticamente è provata, non è così, ma loro continuano a usare questo atteggiamento criminalizzatore e continuano a mantenere questa tesi. Vi voglio anche informare che domani, il 13 di ottobre, alle 8:30 della mattina ci sarà una nuova udienza di appello per cambiare la sua misura cautelare. Questa informazione l'abbiamo potuta rettificare, quindi succederà, questa sarà l'udienza di domani alle 10. Nel tribunale di garanzia. Noi speriamo che al nostro fratello Ariel Tangol si possa vedere, dopo 126 giorni di sciopero della fame, gli possano finalmente dare gli arresti domiciliari totali, che è quello che lui sta sollecitando e di cui ha diritto come diritto giusto. Il 23 di ottobre inizierà quella che è la preparazione del processo e questo è lo scenario tale dal punto di vista, e questo è quanto dal punto di vista giuridico, però questo è sempre soggetto a dei cambiamenti. Il Ministero Pubblico e la Fiscalia di Temuco sempre portano delle sorprese, quindi speriamo che questo giorno non sia così, ma che l'udienza si possa svolgere domani e sì, possano dargli gli arresti domiciliari totali per Ariel Tangol, che è colui che sta nello stato più critico, perché appunto si trova in sciopero della fame. Lui ha deciso di portare avanti questo sciopero perché c'è determinazione, c'è forza nel portare avanti. Non si può stare in galera per un anno e cinque mesi da innocenti. Questo ha fatto sì che Ariel Tangol continui questo sciopero, lo ha già detto, lo ha già dichiarato, e sembra che questo tempo serve a trovare prove che non esistono e che è meramente un montaggio per accusarlo. Questo è ciò di cui vi posso informare, vi ringraziamo per tutta la solidarietà del continente europeo. Credo che la solidarietà in questi momenti di persecuzione e di criminalizzazione sia fondamentale. E allora ringraziamo e sollecitiamo anche il continente latinoamericano, che anche è stato molto vicino a noi e ha collaborato per questa causa del nostro fratello Ariel Tangol Alindo. Queste sono le informazioni che vi posso dire, perché lo stesso Ariol mi ha sollecitato a farlo, e vi continueremo ad aggiornare delle cose che succederanno in questi giorni nel World Mapu. Manuel